Siamo al 7 ottobre, due giorni prima della tragedia. Guglielmo Celso, sindaco di Longarone, che morirà anche lui due giorni dopo, non sa più a chi rivolgersi. Così ricorda quei momenti il suo amico, l'avvocato Giorgio Granzotto. La sua preoccupazione lo portava a avere frequentissimi rapporti con il genio civile, con la prefettura. Ma da parte di questi non c'era mai stata una spiegazione che potesse rassicurare veramente sulla condizione del Vajont, ma nello stesso tempo l'invito a non provocare inutili, esagerati allarmismi su questa situazione. È l'8 ottobre, il giorno prima della tragedia. Anche gli strumenti di controllo installati dai tecnici sul monte dicono che la montagna si è mossa dai 57 ai 63 centimetri. L'acqua continua a scendere nel bacino, il pericolo aumenta, ma nessuno sembra accorgersene, o almeno sembra voler dare il peso giusto a tutti gli elementi che dovrebbero far scattare l'allarme. Siamo al giorno del disastro, è il 9 ottobre del 63. È una giornata bellissima, c'è il sole. La gente delle case intorno al lago continua ad evacuare le abitazioni e le stalle. Al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi scrive un rapporto a Roma, dicendo: la situazione è gravissima, si attendono istruzioni. L'ingegnere capo Violin lo legge e lo spedisce con la posta normale. Arriverà a Roma la settimana dopo il disastro. L'ingegner Biadene è evidentemente scosso e decide di richiamare dalle ferie in America il direttore capo della diga, l'ingegner Pancini. Gli scrive e chiude la lettera dicendo: mi telefona ora il geometra Rossi dalla diga, dicendo che gli spostamenti della montagna sono ancora maggiori. Che Dio ce la mandi buona. Dopo aver percorso le tappe di questa tragedia, abbiamo al telefono Francesca Chiarelli, figlia di Isidoro, notaio a Belluno, che aveva già testimoniato al processo per il disastro sul Vajont con una testimonianza molto, molto pesante sulle responsabilità di allora. Signora Francesca, perché all'epoca la testimonianza di suo padre non fece lo scalpore che avrebbe dovuto? Perché semplicemente è stata insabbiata, non è stato ritenuto metterla nel giusto risalto. Ma era una testimonianza che è stata, come dire, che era agli atti, no? A testimonianza al processo, certo. Ha testimoniato davanti al giudice istruttore a Belluno nel 67 e poi è andato apposta all'Aquila per confermare questa testimonianza nel 1969, in cui ha confermato le stesse identiche cose. Cioè le cose che erano dette in due parole chiarissime, lui aveva sentito una discussione. Lui era il notaio presso cui sono andati a fare una compravendita di terreni, i terreni appunto interessati dal movimento franoso, e in quell'occasione, e stiamo parlando del giorno prima, sì, gli dissero testuali, parole che leggo qui nella testimonianza che ho appena, sì, reperita all'archivio di Stato, che mi dissero che a quell'ora di morosi non ne sarebbero circolati che ben pochi e una spruzzata d'acqua non sarebbe stata la fine del mondo. Mi dissero che i terreni compravenduti il giorno successivo alle ore 21 sarebbero stati buttati in acqua. Ma scusi, chi comprava dei terreni che sarebbero stati buttati in acqua il giorno dopo? Quello che appunto ha causato il movimento franoso, cioè la sede stessa, in modo da poterli fare evacuare e quindi essere tranquilla di poter fare questa azione con una certa tranquillità di non ammazzare nessuno, perché loro credevano che la frana avrebbe interessato solo quei terreni. Ma senta, ma lei perché ha sentito il bisogno adesso di scrivere questa lettera? Ma io sono una comune cittadina, non stava a me tirare fuori questo. In tutti questi anni ci doveva essere qualcun altro di più pubblico che andava a fondo, no, e naturalmente doveva dare maggior risalto a questo. Naturalmente. Io mi sono trovata costretta a questo punto perché per difendere la verità, la sostanzialmente. La memoria di mio padre. Sì. Ecco, chiunque abbia conosciuto, amico o nemico, non potevano stimare. Ecco, ma che tipo di pressione? Lei ha parlato di pressioni che suo padre avrebbe ricevuto per non parlare. Pressioni da chi? Dai dirigenti SADE, che all'epoca, come tutti sappiamo, erano infilati nei poteri più alti dello Stato. I certo. Poteri più alti dello Stato erano in qualche maniera, avevano a che fare con la SADE, quindi erano potentissime ed erano soprattutto piene di soldi. Sì. Sì, era molto più semplice far finta di niente, quindi perché mai un qualsiasi notaio doveva mischiarsi in questa storia? Certo, lui l'ha fatto per un dovere civico. Per un dovere, però, per dovere civico ha fatto l'unica cosa normale che per dovere civico chiunque avrebbe dovuto fare. Quindi no, non sono io che dopo 50 anni tiro fuori questa storia, sono gli altri che non l'hanno tirata fuori prima. Ho capito. Senta, in genere lei lì in zona che reazione ha avuto? Ha avuto delle reazioni di stima, di plauso, di ringraziamento o delle critiche? In zona io ho avuto solo solidarietà, applauso e anzi appunto gente che mi dice adesso mi tornano i conti e ciascuno aggiunge il suo pezzo, sì perché anch'io quella sera adesso capisco meglio eccetera. Invece ho ricevuto ovviamente forti critiche, ma da chi? Che non sa assolutamente neanche di che cosa si sta parlando e che non è nemmeno della zona. Ma la criticano, com'è? La criticano su cosa, mi scusi? Ho letto da qualche parte che pensano che io mi voglia esporre per farmi chissà che pubblicità. Ah, vabbè. Senta, la procura di Belluno ha acquisito la sua lettera per un'indagine preliminare. Beh, lei cosa si aspetta? Certo, ma cosa si aspetta lei da questa indagine? Che vadano a leggersi con calma la dichiarazione di mio papà e che traggano le ovvie conclusioni che qualsiasi persona di buon senso che non è soggetta a pressioni superiori trae. Senta, ma come si poteva programmare una frana, come mi ha raccontato, dalla montagna, se addirittura il direttore capo, l'abbiamo sentito, della diga stava in America in ferie? Ma non c'entra. In maniera molto tecnica e anche comprensibile a chiunque e che chiunque poteva sapere, bastava fare quello che hanno fatto, cioè chiedere l'invaso, cioè di far salire il livello dell'acqua in modo da rendere più pesante la base della frana e quindi chiedendo lo svaso, diciamo, farla scivolare dolcemente, credevano loro, dentro al lago, perché chiaramente volevano poter utilizzare l'impianto per poterlo vendere, non credevano di fare un disastro del genere, certamente non volevano. Beh, però c'erano tutti gli studi che dicevano che già prevedevano questo disastro, effettivamente. Era da decenni che chiunque nel posto, tecnici o anche comuni cittadini, chiunque lo sapeva che era pericolante. Per si chiamava Monte Toc anche per quello, perché cascava a pezzi in qualche modo. Grazie. Buon senso. Grazie signora, la ringrazio molto e complimenti per la sua denuncia. Grazie. Grazie.